Allora, siamo in diretta con un compagno dalla Valsusa che ci racconta gli ultimi aggiornamenti. Vai. Pronto? Sì, sì, ti sentiamo, vai, dici tutto. Ti sentite, perché in questo momento stiamo camminando su un sentiero per raggiungere il concentramento degli autobus, dal quale partiranno anche alcune macchine. Diciamo, vabbè, la giornata ve l'avranno già un po' raccontata, è stata lunga e faticosa, però diciamo abbastanza con alcuni successi, perché il popolo della Val di Susa è riuscito a riconquistare il presidio Clarea, che è il presidio che sta proprio sotto il ponte dell'autostrada. E se non mi sentite ditemelo, perché qui ci siamo. Pronto? Pronto? Vai, ti sentiamo, ti sentiamo. Non mi sento più. Ok. Dicevo, hanno riconquistato il presidio Clarea, che è il presidio che sta sotto il cantiere, dove dovrebbe sorgere il cantiere, quindi insomma un punto abbastanza di successo. Nel frattempo altri cortei sono riusciti, diciamo, a forzare alcuni blocchi delle forze dell'ordine. Uno, quello che viene aspettato nella zona della centrale, perché inaspettato, perché era il corteo istituzionale, diciamo, con anche alcuni pezzi di movimento. Sono riusciti a rimuovere barricate e reti e hanno, diciamo, fatto un tirapiglia con le forze dell'ordine. Sono entrati, poi sono stati mandati via, poi sono rientrati, eccetera. E una parte dei vari spezzoni che si sono mossi è partita invece da Ramà, che è uno dei punti più alti qui, che erano, dai quali erano previste mobilitazioni, ed è sceso per i boschi, arrivando fino a quello che era, diciamo, l'ex campeggio, quando ancora c'era il presidio poche settimane fa, quindi dietro sostanzialmente il museo archeologico di Chiomonte, che sta praticamente sulla parte, tra le parti più alte di Chiomonte. Lì ci sono stati scontri molto molto duri, diciamo, le forze dell'ordine, un uso spropositato di lacrimogeni, come era già successo qualche settimana fa, gas CS, gas orticanti, insomma un uso veramente sconsiderato, un po' forse alla nord europea, perché le forze dell'ordine rimanevano a distanza. E ci sono stati lanci di pietre per ore contro le forze dell'ordine, appunto per farle indietreggiare, in modo da riuscire a conquistare almeno il piazzale dell'ex presidio. E i lacrimogeni, diciamo, sono stata una cosa veramente allucinante, perché sono continuati per ore e ore e ore, di tutti i tipi e in tutte le modalità, fino a che le forze dell'ordine non hanno provato a sfondare, diciamo, esistenze dei compagni, con dei mezzi blindati, con delle ruspe che montavano anche dei briganti. Però diciamo non è andata molto bene, perché poi hanno creato con gli idranti che spruzzavano per i boschi, hanno creato anche un bel pantano, e quindi dopo poco tempo si sono impantanati, e quindi non sono riusciti ad andare avanti oltre, anche perché c'erano molti alberi e quindi era anche difficile, diciamo, andare avanti. Questi scontri sono continuati fino verso le 4. Mi sentite ancora? Pronto? Sì, sì, sì, sì, vai, vai, tranquillo. Fino verso le 4, 4 e mezza, diciamo, si sono fatti sempre più duri. Ci sono stati nelle ultime ore lanci di pietre da parte delle forze dell'ordine e un uso assurdo dei lancia ACS, spara lacrimogeni, diciamo, dei fucili sparati all'altezza uomo. Tantissime sono le persone che sono state ferite con questa modalità. C'è gente colpita al petto, spalle, un ragazzo che ha il setto nasale rotto perché è stato colpito dal lacrimogeno sul naso, una ragazza è stata colpita sull'occhio, pietre che hanno aperto diverse teste lanciate dalle forze dell'ordine. Quindi c'è un atteggiamento molto molto aggressivo e prepotente da parte di polizia e carabinieri, che erano lì utilizzando appunto questi fucili non per il loro scopo, ma proprio per far male. Quindi molte di queste persone sono state aiutate e accompagnate lungo i sentieri a scendere fino al presidio Clarea, dove c'era un minimo di punto di infermeria attrezzato, che ha potuto dare un primo soccorso, e alcuni poi sono stati poi portati in posti più adeguati, magari per ulteriori medicazioni. Nel frattempo, diciamo, quella zona del presidio dove c'era l'ex campeggio, nella quale ci sono stati tra gli scontri più duri, praticamente vicino al ponte dell'autostrada, sostanzialmente, dove ci sono stati gli scontri più lunghi e più duri di tutta la giornata, piano piano si è cominciato a svuotare intorno alle 4 e mezza, proprio perché, insomma, dopo tante ore di battaglia, da tanti feriti da una parte e dall'altra, le energie cominciavano anche a venire meno e tutti i vari quartieri, i vari punti si sono ricongiunti nel presidio Clarea, che è appunto quello che sta sotto nella zona cantiere conquistato questa mattina. Lì si è fatto un po' il punto della situazione, alcune persone sono state medicate, come dicevo, e si è rilanciata la battaglia a partire proprio da questo presidio che ormai è stato ripreso. I valsusini intendono iniziare un campeggio permanente da qui a pochi giorni e faranno il classico presidio nazionale proprio nella zona del presidio di Clarea. Gli elicotteri, come forse potete sentire, continuano a girare su tutti i sentieri e le notizie che ci arrivano sono che le poche persone che erano rimaste nella zona di battaglia sopra davanti al museo archeologico di Chiomonte poi sono state caricate brutalmente dalle forze dell'ordine e costrette a ripiegare fino alla zona di Ramà, al presidio di Ramà, che comunque è un ripiegamento, è stato un ripiegamento molto difficile perché il terreno e la montagna è molto scoscesa in quella zona, quindi per i compagni indietreggiare in salita è stato difficile, quindi c'è stato un accanimento da parte delle forze dell'ordine con una sorta di caccia all'uomo tra i boschi, anche se poi non è stata una vera caccia all'uomo perché comunque le forze dell'ordine venivano tenute a distanza con ogni mezzo da varie persone che partecipavano a questa battaglia e quindi sono indietreggiate fino a Ramà. Nel frattempo ci arrivano notizie di alcuni blocchi e arresti che stanno facendo per le strade, ci sono molti posti di blocco, le strade sono super controllate, però insomma queste notizie sono da verificare un po' meglio perché sono arrivate adesso. Ci risulta anche a noi l'arresto di alcune persone, credo 5 da quello che sappiamo almeno noi qua, che sono state prese negli scontri diciamo di Ramacchio Monte e sono state trattenute dalle forze dell'ordine e adesso si sta cercando di trattare con le forze dell'ordine un rilascio di questi. E niente, per il momento la maggior parte delle persone che era prima concentrata al presidio di Clarea, al presidio dove dovrebbe sorgere questo cantiere che adesso è stato riconquistato, sta riprendendo i sentieri per raggiungere le macchine, raggiungere gli autobus con alcune difficoltà perché comunque ci sono plotoni di forze dell'ordine schierate su alcuni dei sentieri che portano in queste località, quindi si stanno scegliendo strade alternative con difficoltà e fatica dopo una giornata di battaglia e quindi si cerca di tornare alle macchine, agli autobus senza essere arrestati sostanzialmente, perché le notizie sono un po' queste. Gli elicotteri continuano a supervisionare tutta la zona e quindi a dare anche informazioni alle forze dell'ordine a terra su come muoversi. E questo, insomma, penso sia tutto, almeno per il momento. Ho capito. Senti, guarda, ci risulta anche a noi che la polizia si stia mettendo nelle frazioni, diciamo, limitrofe per fare proprio la caccia all'uomo, stanno cercando di fermare un po' tutti. E poi stavamo sentendo una compagna prima che stava dicendo che il gruppo di Roma si stava cercando di ricompattare ai pullman, non so se lo sai, ecco. Sì, a Giaglione, il gruppo di Roma, i pullman a Giaglione. Sì, però anche per arrivare a Giaglione ci sono alcuni sentieri che sono bloccati. Ce ne sono un paio che stiamo percorrendo che sembrano liberi e quindi in qualche modo qualcuno è già arrivato, quindi un modo per arrivare c'è, però bisogna stare un po' con gli occhi allerta per evitare appunto questi plotoni di polizia schierati sui sentieri che stanno facendo identificazioni, eccetera. Senti, ma tu ci confermi che la polizia ha sparato con dei proiettili di gomma? Ti risulta anche a te questa cosa? Sì, la polizia ha sparato proiettili di gomma, in particolare nella zona adiacente all'autostrada. C'erano militari appostati con divise mimetiche e al solo passaggio di manifestanti con il volto travisato sparavano. Quindi non c'era neanche bisogno di provocare chissà quali cose, diciamo, bastava passare con il volto travisato e si veniva colpiti da questi proiettili di gomma. Oltre a questo uso, diciamo, che è stato contenuto a quella zona, da quanto ne so io almeno, l'uso peggiore è stato quello dei gas CS sparati altezza uomo che sì, hanno veramente fatto molte vittime da questo punto di vista. Cioè, la maggior parte dei compagni feriti è stata tutta ferita con i gas altezza uomo e qualcuno da qualche pietra. Senti, quindi, i proiettili so che sono stati sparati, ma non ho notizie di persone ferite con proiettili di gomma. A noi ci risulta anche che circa una mezz'ora fa, forse anche qualcosa di più, perché è un po' che stiamo in linea, una delegazione di manifestanti che stava vicino alla centrale con un capogruppo del Movimento 5 Stelle, credo, sia andata a mani alzate a contrattare con la polizia qualche cosa. A te ti risulta questa cosa? No, non lo so perché, guarda, noi eravamo più in alto, più sopra, e quindi non so darti notizie. So che da quelle parti, nonostante la situazione dovesse essere più tranquilla, alla fine sono riusciti a rimuovere la rete, hanno rotto la rete. Hanno forzato le barricate, sono riusciti a entrare per alcuni metri, ma poi sono stati ci sono state forti cariche pure là. Le migliaia di lacrimogeni che piovevano sia dal cielo che da terra, sostanzialmente. Questa cosa che mi dici non te la posso confermare perché non ne ho notizia. Va bene. Allora, senti, per ora è tutto, casomai ci risentiamo più tardi quando siamo sicuri che tutti quanti siete sui pullman, va bene? Va bene, ok. Ok, dai, un abbraccio. Buona lotta, ciao. Ciao, un abbraccio.